Risponde l'operatore numero 308. Chiedo, buongiorno. Buongiorno, io sono sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Via del Mare e la Pontina e volevo sapere questo ingorgo quanto dura. Via del Mare, Pontina? Carreggiata esterna. Ci sono code fino alla Laurentina per incidente. Ho capito, va bene, grazie. Prego, buongiorno. Buongiorno. Beh, sono fortunato ad avere l'aria condizionata perché vedo la gente che annaspa aprendo i finestrini. Poi ci sono anche i più simpatici, sono quelli che hanno le Porsche completamente scoperte. Non so se invidiarli in questa circostanza, francamente.